Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, a tutti buona giornata. Oggi una puntata di avvicinamento al Natale. Parleremo di un po' di temi per capire con che spirito vi state avvicinando alle prossime festività, anche alla luce di alcune notizie che abbiamo raccolto in questi giorni e che ci piacerebbe approfondire con voi. Beh, intanto colpiscono sicuramente anche i temi che ha approfondito questa mattina il nostro Oscar Giannino, cioè la questione legata alla povertà in crescita nel nostro paese, secondo quanto ha tracciato ieri il rapporto Istat-INPS Lavoro, il rapporto sulla coesione sociale. Il rischio povertà nel 2011 ha riguardato quasi un italiano su tre, il 29,9% della popolazione monitorata contro il 26,3%. Ma parleremo anche di altro, oltre che di queste statistiche grandi, globali e ufficiali. Ieri la Confederazione Italiana Agricoltori, ricordando come nel 2011 siano finite nei cassonetti 440.000 tonnellate di cibo, che equivalgono al circa 50 euro a testa di moneta sonante, quest'anno si cambia radicalmente il registro e, complici le difficoltà economiche e anche l'inasprimento fiscale che ha appesantito un po' tutti, gli italiani si stanno scoprendo meno sciuponi e nel Natale dei tagli a regali e viaggi oltre la metà delle famiglie italiane farà economia domestica, riducendo gli sprechi alimentari e reinventando nuovi menù con gli avanzi delle feste. E questo è un tema che approfondiremo con Domenico Mastrogiovanni del Dipartimento Economico della CIA Nazionale. È già in linea con noi. Dottor Mastrogiovanni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. E grazie. Poi, che cos'altro abbiamo scoperto? Che però in quest'anno, appunto, l'Istat prima lo fotografava chiaramente, molte famiglie per fronteggiare i momenti di difficoltà si sono indebitate e anzi sovraindebitate. Nei giorni scorsi Adiconsum ha tracciato un bilancio dell'attività svolta dal proprio sportello famiglia e lo spaccato è particolarmente preoccupante perché la situazione è molto delicata e critica per le fasce più deboli della società: anziani, coppie separate, lavoratori con contratti a termine che non riescono a pianificare spese in impegnative e per sostenerle si indebitano. Ne parleremo con il segretario generale di Adiconsum, Pietro Giordano, che anche pure dovrebbe essere collegato, anche pure telefonicamente con noi. Segretario, buongiorno e bentornato a Salva Danaio. Buongiorno. Infine, in questa puntata, appunto, come ribadisco, di avvicinamento a questo Natale sobrio, come gli ultimi che abbiamo vissuto, per non deprimere i nostri ascoltatori più di quanto non abbiamo già fatto in tutti questi mesi, parleremo anche di regali. E allora, siccome vogliamo che ne possiate fare il più possibile a tutti i vostri cari, vi daremo qualche consiglio per non farvi abbindolare, per prestare attenzione ai prezzi. So che lo fate già, ma a volte, magari in questo periodo in cui si fa un po' tutto all'ultimo minuto, non prestiamo attenzione ai prezzi finali degli articoli che ci interessano. E allora vi proporremo il vademecum dell'Unione Nazionale Consumatori, che ha lanciato una piccola campagna nei giorni scorsi, il rincaro dove meno te lo aspetti, e ci spiegherà tutto Agostino Macri, esperto di sicurezza alimentare dell'Unione Nazionale Consumatori, che saluto. Dottor Macri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e benvenuto anche a lei. Quindi avete tanti argomenti da commentare con noi. Raccontateci come vi state muovendo verso questo Natale 2012. Cosa metterete in tavola? Che regali sotto l'albero? So bene che tutti ci abbiamo trovato l'IMU. Quanto vi costa questa festa? Con che condizioni economiche, appunto, lo affronterete questo Natale? Riuscirete ad accantonare le preoccupazioni del portafoglio che ci hanno accompagnato tutto l'anno? Noi, appunto, vi ribadisco, più che mai oggi vorremmo condividere con voi questa puntata. Per cui chiamateci all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 238 6666 al nostro indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. Potete andare anche su Facebook, se io stamattina riuscissi anche ad aprirlo dai miei monitor non ci riesco. Comunque il nostro profilo è sempre lo stesso: salvadanaio-radio24. Adesso la borsa. Stamattina abbiamo una giornata positiva di borsa, come ieri. In questi giorni i mercati sembrano più tranquilli e quindi chissà che non si vada verso il Natale, almeno archiviando le preoccupazioni di natura finanziaria che sono state il nostro grande cavallo di battaglia, nostro malgrado, in questi ultimi mesi. La borsa è positiva, più 0,8% a Milano, più 0,5% Parigi, Francoforte fa più 0,29%, nonostante l'indice di fiducia IFO pubblicato poco fa, che è risultato in dicembre migliore delle attese. Questo non non basta la borsa tedesca, perché invece dalla Germania cominciano a tirare venti sinistri di crisi economica e quindi anche la borsa un po' comincia a risentirne. Londra più 0,6, la Spagna guadagna 1,5 punti, gli spread sono più tranquilli, addirittura quello che distanzia appunto il rendimento dei titoli decennali italiani rispetto al rendimento dei titoli decennali tedeschi, quindi lo spread fra BTP e Bund, è arrivato sotto i 300 punti base stamattina e il rendimento delle BTP è arrivato al 4,42%. Adesso siamo ancora intorno a questo livello, 300 punti sicuramente abbiamo archiviato tutta la settimana scorsa, che invece era partita malissimo da questo punto di vista. L'euro sul dollaro a 1,3272, migliori titoli di Milano, Buzzi Unicem più 3,79, UbiBanca più 3,43%, Tenaris più 2,85, vanno bene tutte le banche perché se lo spread si restringe le banche vanno bene. Pirelli meno 0,74 è il peggior titolo di stamattina, insieme a Finmeccanica meno 0,6 e Generali meno 0,30%. E questa era la borsa di oggi. Volevo risalutare di nuovo Domenico Mastrogiovanni del Dipartimento Economico della Confederazione Italiana Agricoltori. Dottor Mastrogiovanni, le faccio sentire un pezzettino di un film che tutti conosciamo benissimo, non ci stancheremo mai di guardarlo, e poi lo commentiamo con lei, sentiamo. Battista, guanti Barone. Quante volte devo dire che a tavola voglio essere io con i guanti, voglio essere. Ma i guanti sono più sporchi delle mani. Non vuol dire, sembra quanti sono. Avanti, schivi. Presto, schivi. Mi vedi i guanti? Dunque, che c'ho un po' d'appetito, la fama lunga stasera. Per una bella cenetta gustosa e succolenta. Mi ordini. Antipasto. Antipasto. Antipasto. Caviale e salmone. Caviale e salmone. Oh, poi un bel consumé ristretto, molto ristretto. Etto. Dentro un uovo. Un uovo? Un uovo, è poco. È poco, sì. Metto due uova. Metto due uova. Due uova. Due uova. Oh, Battista. Dimmi un po', dimmi la verità. A pesce, come stiamo? Male. Lo so. E sa, non è stagione. È temporale, eccetera, eccetera. Beh, allora questo pesce me lo sostituisci col pollo. Pollo. Hai capito? Il pollo, patatine fitte, con due patatine fitte. Episodio di stagione. E formaggio. Come formaggio? Gruyère. Gruyère, autentica, deve essere autentica. Vizzera, vizzera, sì, vizzera. Ma poi porto un po' di dolce. Che dolce? Cancaramè. Cancaramè. Frutta? Frutta esotica. Esotica, ananas. Ho tutto questo, io lo voglio innaffiare. Lo voglio innaffiare una bella bottiglia di champagne ghiacciata. Champagne francese. Francese, piper. Piper. Portami una bella piper, va. E i soldi? Quali soldi? I soldi. Guardare che cosa? Hai comprato tutta questa roba? Oh, ma insomma, c'è una volta, ma allora è l'abitudine che hai preso. È la malattia. E tu ogni volta mi chiedi i soldi. Ma insomma, allora, io ti ho messo su un piedistallo, l'ho messo. Allora, non ci vuoi stare sul piedistallo che ti ho messo? Scusa, anticipa tu, cosa vuoi da me? Io non c'ho un centesimo, signor Barone. Signore si nasce, quante volte l'ha visto, dottor Mastrogiovanni? Questa scena rappresenta molto la condizione di molte famiglie italiane. Adesso qui ci facciamo due risate, c'è ben poco da ridere quando invece ci troviamo in una situazione di questo tipo: fare la lista della spesa, andare a farla e poi ritornare indietro con magari la lista che rimane intatta, ma la busta della spesa con meno prodotti rispetto a quelli che si era preventivato di comprare. Detto questo, ci racconta un po' che cosa avete scoperto nel vostro monitoraggio intitolato Natale: con la crisi non si butta via niente. Durante le feste il 64% delle famiglie saranno più attente al riciclo al tavola, che non vuol dire la minestra riscaldata, ma comporre appunto la tavola di Natale in che modo? Abbiamo scoperto questo, che in una fase, diciamo, di sobrietà e di crisi, l'italiano medio non abbandona la tradizione, ma a parità di condizioni di tradizione che ogni anno si ritorna, fa i conti con la disponibilità e cerca di acquistare, andando su mercati in cui c'è convenienza acquistare anche prodotti tipici, e poi ha riscoperto una capacità che è la dispensa, cosa che era stata abbandonata dalle famiglie italiane, ma si cerca di fare dispensa, e con questa dispensa si consuma, ma quello che viene consumato poi non finisce nel cestino perché è un avanzo, ma può essere, diciamo, riutilizzato come strumenti, come componenti per nuove pietanze. Questo è fonte anche di una riscoperta capacità di creare nuovo nell'ambito della cucina italiana. Questo deriva anche dal fatto che in questa fase dell'anno c'è più tempo per stare in cucina. Senta, come avete condotto questa indagine? Come fa Coldiretti, che io immaginavo appunto interpellasse soprattutto le aziende agricole, no? Quando conduce le sue inchieste, come siete arrivati alla famiglia italiana? Noi siamo arrivati alla famiglia italiana sia... Non Coldiretti, mi scusi, ho cambiato associazione. No, no, vabbè, Confederazione Italiana Agricoltori, sì. Siamo arrivati sia attraverso la nostra indagine, sia attraverso una collaborazione con associazioni di consumatori, i quali periodicamente fanno, diciamo, queste indagini per conoscere gli usi e le abitudini della spesa delle famiglie italiane. Questo deriva anche dal fatto che molte nostre aziende fanno vendita diretta e di fatto riescono a percepire qual è il comportamento medio del consumatore che si reca in azienda o sul mercatino per acquistare prodotti. E da questo è venuto fuori questa tendenza a voler comunque celebrare le festività, ma facendo i conti con quello che si ha a disposizione e nel cercare di acquistare il meglio possibile, ma con una tendenza a non trasformare quello che non si è consumato in un avanzo, ma come un prodotto idoneo a ricostruire qualche piatto nuovo, andando a riscoprire anche quella che è la tradizione tipica della cucina italiana. È molto interessante come avete condotto questo monitoraggio, perché a volte ci rendiamo conto che delle efficienti ed efficaci azioni di marketing si possono fare osservando direttamente il comportamento del consumatore senza mettere in piedi così degli strumenti di indagine strasofisticati e molto particolari. Senta, mi colpiva molto questa parte iniziale della vostra indagine, quella che rammenta come negli anni passati si sprecava e quanti alimenti finivano nel bidone della spazzatura, dai 10 ai 20 milioni di tonnellate di cibo, 40 miliardi di euro, il 2,4% del PIL. Sono delle cifre spaventose. Sono cifre spaventose, erano legate anche al fatto, a questo elemento che dicevo, che la famiglia italiana aveva aperto il gusto della dispensa, cioè di avere qualcosa in casa da poter utilizzare per cucinare. C'era la tendenza ad acquistare, utilizzare e buttare. Questo significa che per anni molto del cibo prodotto o non veniva raccolto perché non trovava mercato, oppure una volta commercializzato finiva nel cestino e quindi diventava un rifiuto. E questo ha fatto sì che una fetta importante del prodotto interno lordo che veniva prodotto finiva direttamente nel cestino, e quindi c'era anche il doppio costo, perché poi diventa spazzatura, un costo e tutto quello che ne deriva con la tassa. Allora, sulla tavola degli italiani ci ritorneremo fra qualche istante. Adesso andiamo ad affrontare anche la situazione di quei nuclei familiari che la comporranno con ancora più difficoltà. Pietro Giordano, segretario generale di Adiconsum, ancora buongiorno. Lei, signore Sinasci, l'aveva visto? Lo conosceva, sì, naturalmente. Più di una volta. Ecco, allora, voi avete fatto nei giorni scorsi un appuntamento, avete organizzato un appuntamento che è ricorrente per quello che riguarda la vostra attività, avete presentato il bilancio dello sportello Famiglia 2012, anche perché Adiconsum è l'unica associazione dei consumatori in Italia che gestisce un fondo antiusura e quindi gestisce direttamente del denaro da erogare eventualmente a quei nuclei familiari in grandi difficoltà che magari sono finite in reti un po' più complicate, dalle quali uscire nel giro proprio dell'usura, visto che il fondo si chiama effettivamente così, fondo di prevenzione antiusura. E quindi che cosa avete scoperto? Che già abbiamo visto appunto come l'Istat richiama l'attenzione sull'aumento della povertà tra le famiglie italiane. Voi chiaramente monitorate situazioni estreme, estremamente problematiche, però anche voi avete notato un cambiamento di situazione, forse un peggioramento della condizione sociale di chi era già in difficoltà, Giordano? Un profondo cambiamento e un profondo aggravamento della situazione di chi è in difficoltà, e soprattutto sulle fasce più deboli. Aumenta i disagi, per usare un eufemismo, perché sono veri e propri drammi, degli over 65, che sono la fascia più debole che abbiamo in questo paese, perché non riescono più ad avere neanche spesso l'ammortizzatore sociale della famiglia, perché spesso rimangono soli o vengono abbandonati. C'è un nuovo fenomeno molto pesante, che è quello dei separati e dei divorziati, nel senso che un tempo riuscivano ad avere un solo costo di affitto, una sola bolletta della luce, una sola bolletta del gas, oggi dividendosi e divorziando, anche chi nel secolo scorso apparteneva al ceto medio, definiamolo così, oggi si trova in gravissima difficoltà perché non riesce con stipendi che sono prossimi, diciamo intorno ai 1200 euro, soprattutto nelle grandi metropoli, non riesce a far fronte alle spese. Ormai l'altro giorno parlavamo proprio con la Caritas, a parte che sono 3 milioni e mezzo i cittadini italiani che vivono al di sotto della soglia di povertà, oramai in questo ex ceto medio va alle mense dei poveri pure a mangiare e va anche le giovani coppie, quindi spesso anche i precari, che questo è l'altro dato, i precari non riescono neanche a comprare, se hanno un figlio, neanche a comprare i pannolini e il latte per i bambini e vanno presso i centri della Caritas. L'altro grande fenomeno pericolosissimo, anche perché ha un, come dire, coinvolge lo Stato, è questo fenomeno dei gioco dipendenti. L'aumento dei gioco dipendenti finisce che sono molto prossimi alla criminalità organizzata, cioè molto prossimi nel cadere nelle maglie della criminalità organizzata, finisce con il richiedere prestiti per poter pagare appunto le bollette, le utenze telefoniche per poter sopravvivere. Questo è un altro fenomeno in crescita, esponenziale purtroppo, e quindi le fasce più deboli, ormai questa è diventata una malattia, le fasce più deboli sono colpite pesantemente da una crisi che è ormai anni che esiste e da un sovraindebitamento che sta diventando enorme all'interno delle fasce più deboli. Ho scoperto peraltro che la ludopatia è diventata la prima causa di dipendenza in Lombardia pochi giorni fa, per cui questa poi tra l'altro è una regione ricca, immaginiamo che cosa possa succedere nelle altre città dove ci sono più problemi. Adesso vado anche a Macri per, come dicevo anche all'inizio, alleggerire un po' la trasmissione, non vogliamo sicuramente contribuire a deprimermi più di quanto non abbiamo già fatto in questi mesi, però era anche giusto a ricordare queste famiglie che sono in difficoltà e gli aiuti che spesso vengono dati anche appunto da tante organizzazioni sul territorio, in modo tale anche che le famiglie lo sappiano, che ci sono dei punti d'appoggio. Un'ultima considerazione, Giordano, poi su questi temi ci ritorniamo anche nella seconda parte di Salva Danaio. Terzo argomento di oggi invece, i regali di Natale. Allora, il rincaro dove meno te lo aspetti è una piccola campagna che è stata lanciata dall'Unione Nazionale Consumatori. Agostino Macri, ancora buongiorno, lei è responsabile buongiorno del settore sicurezza alimentare per questa associazione dei consumatori. E allora in questi giorni chiaramente i negozi ci attirano in ogni modo con tanti colori, così come chiaramente anche i supermercati dove si vendono generi alimentari imbandiscono i loro banconi con ogni ben di Dio e siamo straattirati. È chiaro che in questo frangente la nostra vista si annebbia e facciamo molto poco caso magari al prezzo al chilo dei generi alimentari. Ci dà qualche suggerimento utile per non cadere vittima di queste trappole alimentari nelle quali peraltro cadiamo molto volentieri anche, per carità? Questo è vero, però ecco, la cosa che mi sembra importante da dire è che molto spesso ci si limita a fare la denuncia, questo è aumentato, questo qua, però difficilmente si danno delle indicazioni su come poi uno si deve comportare effettivamente. Questa è la mia, diciamo, un'osservazione che ho fatto andando in un supermercato, parlo direttamente del nome, una cosa che si attacca sull'albero di Natale, a base di Nutella, ho guardato quanto ne conteneva, ho visto il prezzo, erano circa 60 euro al chilo, ora il barattolo invece di Nutella costa 7 euro. Stiamo parlando di quelle confezioni piccoline, praticamente. Adesso pare che vada di moda farci anche l'albero di Natale, così, come lo vorrei a casa mia, guardi, lo posso dire. Quindi questo qui, ad un certo punto per uno deve sapere che quello è bellissimo, per carità, però costano 60 euro al chilo. Ho trovato delle caramelle che normalmente vengono vendute a 9 euro, 10 euro al chilo, questo qui è il prezzo che viene fatto, poi messe invece in una scatola con un pupazzo peraltro non è anche molto bello, arrivano a 90 euro al chilo, quindi cioè ci siano questi prezzi che veramente sono un po' esagerati a questo punto. Poi la gente non fa mai, per esempio, il caso ai prodotti tutti i prodotti di pronto consumo, tipo la verdura pronta, quelle scatolette lavata, stirata, asciugata, eccetera, no? Quella lì pure è un qualcosa che effettivamente è comoda, è utile, c'è un lavoro dietro, perché per carità, chi ci lavora ci impegna del tempo, ci impegna delle risorse, del personale, però se uno va a vedere il prezzo, uno dice la pago un euro quella scatoletta, però se va a vedere sono 80 grammi, se la presento al chilo sono 12 euro al chilo. No, senta un po', invece di parlare di Nutella piuttosto che di insalata, col panettone e il pandoro come siamo messi? Il panettone e il pandoro lì c'è una varietà di costi incredibile, si va da... si va, perché l'ho comprato io ieri un panettone e un pandoro in un supermercato di marche note e subito ha fatto la quantificazione del prezzo al chilo, perché io non poteva farsi mancare l'occasione. L'ho pagato 2 euro l'uno, 2 euro ieri, quindi prima di Natale, però andando in giro per le varie pasticcerie si trovano anche a 20 euro al chilo, 20, 25 euro al chilo addirittura, perché ci sono queste, insomma, il consumatore deve sapere che in realtà i prodotti che si trovano in commercio possono avere caratteristiche organolettiche diverse, per carità, questo, però da un punto di vista di sicurezza alimentare sono praticamente uguali. C'è un livello di sicurezza nei nostri alimenti. Sì, magari hanno una confezione un po' meno esteticamente però, accattivante, ci possono essere tante cose. Però. Noi dobbiamo insegnare ai nostri concittadini che effettivamente c'è la possibilità di risparmiare e di non fare spese allora, folli, però soltanto facendolo con una certa oculatezza. Non so, noi stiamo cercando di faremo girare entro oggi una specie di piccolo decalogo su quello che si può fare per risparmiare qualche cosa, certo. E non soltanto dire che le cose sono aumentate, questo è vero, e neanche vorremmo fare in modo di condizionare i consumatori a quelle che sono responsabilizzarli un po' di più, renderli più consapevoli. Il consumatore deve essere responsabile di quello che fa, se compra qualche cosa deve sapere che dietro c'è un qualche cosa, o c'è un danno ambientale, per o c'è tutto quello che, però lo deve sapere, si deve rendere conto di quello che fa. Il panettone a 10 euro non è che lo subisci, lo scegli, pertanto se uno può prendersi un panettone a 10 euro lo può prendere tranquillamente, per carità, però deve sapere che ce ne sta uno a 2 euro che effettivamente è buono lo stesso, cioè non fa male, cioè se poi se ne mangia tanto fa male pure quello da 2 euro quello da 10, perché come si ricordiamo, poi ecco, un'altra cosa, poi abbiamo fatto un piccolo calcolo di quello che si mangia col cetone, è vero che capita una volta l'anno, anzi a Natale, a Capodanno, però i cenoni, se uno va a vedere le calorie che ingerisce, arriviamo a delle cifre importanti, 3-4 volte le dosi massime accettabili. Esatto, e poi ce lo trasciniamo per altri 4 giorni, quindi, tutto il malessere e la glicemia. La cosa importante effettivamente è fare, non so, acquistare certe cose. Se io compro i carciofi che mi servono per fare il fritto di Natale, e i carciofi se li compro oggi già mi costano 1,20 euro, 1,30 euro, magari una settimana fa mi costavano molto meno, 60 centesimi. Cioè, chiaramente qui abbiamo dei differenti comportamenti sui prodotti freschi e sui prodotti conservati. Molto bene, tra l'altro ieri abbiamo avuto Mister Prezzi noi a Salvadanaio e non abbiamo fatto in tempo magari a segnalargli l'eventuale speculazione che può partire proprio in questi giorni sul carciofo. Mi fermo un attimo perché adesso vorrei dare la parola agli ascoltatori e poi commenteremo anche le riflessioni dei nostri amici all'800240024 con Domenico Mastro Giovanni di Confederazione Italiana Agricoltori, con Pietro Giordano di Adiconsum, Agostino Macri dell'Unione Nazionale appunto Consumatori. Valentina ci scrive su Facebook: farò solo regali per i bambini, pensierini inini per i parenti più stretti, per quello che riguarda il pranzo di Natale buono ma non eccessivo. Ma pone in un interrogativo Valentina, molto intelligente e ricorrente da molto tempo a questa parte, però se funziona così, quando ripartono i consumi nel nostro paese? Quando ci saranno un po' redditi un po' più alti, Valentina? E quindi il tema è anche questo, quindi quando ci saranno anche delle politiche che potranno consentire di far ripartire i consumi. Detto questo, Giuseppe da Varese, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi richiamato. Io sono rimasto colpito da un paio di cose che avete detto. Sì, quali? In particolare quello che parlava della solitudine e del fatto che c'è una depressione totale, tutto si parla di cose brutte o comunque faticose. Cioè, il mio intervento era per questo. Bisogna che ci sono tante realtà positive che aiutano queste famiglie in difficoltà, che non riescono ad arrivare alla fine del mese e che sono un gesto e un punto, un luogo di speranza. Secondo me la vostra trasmissione, oltre che descrivere tutto quello che fate meravigliosamente, dovrebbe lasciare uno spazio per delle testimonianze positive di luoghi come quello che io vivo, al di là del mio lavoro, che è una casa di accoglienza delle famiglie dove, collegati al banco alimentare, aiutiamo le famiglie non solo a arrivare a fine del mese, ma a dare un significato alle cose e a scegliere il cibo, ad aiutarli in maniera tale che non ci siano sprechi, ma soprattutto ora un luogo di speranza, perché certo, il problema più grosso e di ripristino della dignità personale qualche volta, Giovanni, anche, no? Giuseppe, mi scusi. Scusi, non ho capito. Ripristino un po' della dignità personale, certo, perché qualche volta queste persone temono anche di averla persa. I problemi a volte non si possono risolvere perché sono enormi. Il punto è che se uno è da solo, ci vogliono luoghi, e questi luoghi ci sono, c'è tanto, certo, volontariato in Italia. È vero. E questo va testimoniato, perché sennò parliamo sempre di notizie negative. Giuseppe, io la ringrazio per questa proposta, le prometto che magari cominceremo anche questo cammino a partire da gennaio, ogni tanto fare anche un nostro piccolo osservatorio su queste realtà che funzionano molto bene, che aiutano le persone in condizioni appunto di disagio estremo. Per sua natura la trasmissione Salva Danaio nasce per rispondere ad altre domande, per parlare di risparmio e di budget familiare. Detto questo, siccome si allarga sempre di più la fetta sociale, la fetta di famiglie che non è in grado di risparmiare, allora magari sarà il caso appunto di essere ancora più attenti a queste situazioni. Giuseppe, grazie molte, e vedremo se riusciremo a fare un percorso anche su questo argomento. Però Giordano, effettivamente è un po' il tema che affrontavamo anche prima, no? Tante realtà silenziose che operano ogni giorno sul territorio a sostegno delle condizioni di criticità molto forti. È la ricchezza di questo paese, grazie a queste realtà. Noi nel nostro piccolo tentiamo anche di fare questo, perché il centro antiusura è anche, come dicevamo prima, un momento in cui le persone possono trovare un punto di riferimento. Abbiamo fatto anche Speranza al Lavoro col sindacato per poter dare sostegno psicologico, oltre che materiale, agli imprenditori e ai lavoratori che si trovano attanagliati dalla crisi, ma sono tantissime, migliaia e migliaia le realtà del no profit, definiamole così, che riescono a dare un sostegno che, torno a ripetere, non deve essere soltanto e freddamente un sostegno economico, cosa che ci vuole, perché il centro antiusura interviene fino a 25.000 euro per dare sostegno alle famiglie in stato di bisogno. E a volte le famiglie vanno in default non per 25.000 euro, perché questo è il dato, la media è 10.000 euro. Sì, ma anche meno, certo, magari basta semplicemente media, rimanere appunto indietro di due bollette, si finisce nell'elenco dei cattivi pagatori e comincia un vergogna, domino. Ecco, lì è la vergogna che abbiamo affrontato anche con Cliff durante il convegno che ci davamo, nel senso che due bollette, se è veramente una vergogna finire come cattivo pagatore con tutte le conseguenze che questo ha. Oggi è necessario maggiore solidarietà, quindi non si parla solo negativamente, c'è maggiore sobrietà, perché probabilmente nel passato, come dire, abbiamo sprecato. Il dato che si citava la CIA è un dato reale: si buttava il cibo, ma si buttavano i vestiti, si compravano 5 magliette anziché una. Ecco, oggi si è recuperato il senso della realtà. Allora, Agostino Macri, gliene leggo solo un paio, ma ne sono arrivate a decine di riflessioni simili. Andrea da Reggio Emilia: bisognerebbe non paragonare mele con pere. La differenza fra un panettone di 2 euro e uno veramente artigianale non è certo solo nella confezione o nella sicurezza alimentare, che non è poco. La qualità delle materie prime e la lavorazione è molto più lunga, ad esempio. Siamo in Italia, queste cose dovrebbero essere fondamentali. Un altro ascoltatore, Angelo: la qualità del panettone a 2 euro non è paragonabile con quella di uno artigianale. Come fate a dire queste cose? Si difende da sé, Macri? Non c'è bisogno di difendersi. Io ho detto semplicemente che dal punto di vista di sicurezza, non c'è differenza significativa tra un panettone di quelli da 2 euro, che poi quello da 2 euro quello che ho pagato 2 euro era un panettone su cui c'era scritto che costava 9 euro. Quindi ecco, vabbè, apriamo la parentesi dei margini applicati su certi... Vabbè. Quindi su questo, in questo senso intendevo dire, cioè praticamente è un prodotto di marca che ho pagato 2 euro, per motivi che io non riesco a capire, comunque questo è successo. Però in realtà i panettoni industriali, in realtà utilizzano materie prime controllate come viene fatto con quello artigianale, e il livello di sicurezza del prodotto, non parlo di qualità organolettica, la sicurezza è sicuramente è almeno lo stesso. Ora, quello che bisognerebbe far sapere è che le industrie alimentari, tutte le industrie alimentari, debbono seguire discipline di produzione estremamente rigorose, estremamente severe, che sono quantomeno comparabili a quelli di prodotti artigianali, che sicuramente sono differenti dal punto di vista di gusto, di sapore, sono decisamente differenti. Però in realtà quello che, mi riguarda la sicurezza, cioè certo, il fatto che mangiando questo panettone non mi fa male, non mi fa male sia quello industriale che quello artigianale. Ecco. Ovviamente. Poi, se noi andiamo a guardare le materie prime, lì si parla di materie prime italiane, dobbiamo renderci conto che il frumento che noi impieghiamo per fare i panettoni, sia industriali che artigianali, è di importazione, perché non abbiamo più frumento italiano. Quindi importiamo le materie prime che vengono impiegate per fare questi panettoni, sono sia industriali che artigianali, sono di importazione. Qui non posso non sentire anche la Confederazione Italiana Agricoltori. Mastro Giovanni, qual è la sua teoria, la sua concezione del panettone da consumare in questo momento? Allora, partendo dal presupposto, e non volendo, che lei ha toccato in precedenza un elemento di politica di coesione che deve essere forte in questo paese, in particolare per chi non ha pari condizioni di opportunità. Quando parliamo di panettoni, noi dobbiamo tenere presente che c'è un prodotto industriale e un prodotto artigianale, e quindi c'è un concetto di saperi e di sapori legati al confezionamento di quel prodotto, che poi si ritrova in etichetta, se uno è capace di leggere. Quindi l'invito ai consumatori a guardare che cosa c'è scritto nelle etichette, lì si capisce se quello è un prodotto che viene da materie prevalentemente made in Italy, oppure se, essendo industriale, pur rispettando gli aspetti igienico-sanitari eccetera eccetera, non diciamo valorizza quella che è la produzione e il saper fare del made in Italy, ma è un prodotto da consumare come un prodotto di largo consumo, e questo poi lo ritroviamo nel prezzo. E quindi c'è la giustificazione di quello che dicono alcuni ascoltatori, che i saperi, i sapori, le tradizioni a volte hanno un'implicazione nel prezzo che, se uno conosce, tiene presente. Questo ovviamente fa parte di un altro aspetto, che è l'educazione alimentare, da un lato, in particolare i più giovani, che stiamo trascurando negli ultimi anni, e l'informazione, che spesso ha un risvolto nell'etichetta del prodotto, che se il consumatore si abitua a leggere riesce anche a capire le differenze di prezzo che ci possono essere. Bene, abbiamo preso anche così appunti per altre trasmissioni per il prossimo anno, una guida attenta alla lettura della etichettatura appunto dei prodotti alimentari. Marco ci racconta su Facebook che la crisi non ha cambiato le abitudini della sua famiglia, sempre sobri ed essenziali, pesce, tutto rigorosamente fatto in casa, non il pesce immagino, però chiaramente come viene cucinato, spero, coinvolgendo ai fornelli la famiglia come ogni anno, regali solo cose utili, high tech, strumentale per la vita ma non indispensabile, viviamo senza bancomat, carta di credito, acquistiamo se possiamo altrimenti evitiamo. Marco, chiaramente delle scelte molto radicali per sé e la sua famiglia, magari come sempre si possono trovare anche delle come dire, soluzioni intermedie per vivere lo stesso in maniera sobria ma tranquilla per tutti. Marinella da Treviso, in 20 secondi, Marinella, grazie molte. Buongiorno. Ce la fa? Sì, una sola considerazione. Il fatto che 50 euro pro capite di igiene alimentare buttati mi ha sconvolto. Sì. Faccio una considerazione. So per certo di supermercati o ristoranti che, anziché rigenerare le cose che non vanno vendute, le buttano via. Voglio dire, è facile dire le famiglie buttano, ma vogliamo anche vedere magari anche le ditte quello che fanno con queste cose, magari anziché buttarle darle a qualche banco alimentare. Certo, nel esatto, no, come lei dice, qualcuno le butta, qualcun altro invece sostiene questi centri di distribuzione alimentare per i meno abbienti. Io so anche di queste esperienze. C'è anche, Marinella, lei avrà fatto caso al supermercato, quella parte, magari quel bancone dove vengono messi in vendita prodotti in imminente scadenza al 50% di sconto. Qualche volta, anche parlando di questo argomento, qualche ascoltatore si è scandalizzato perché dice: che tristezza, tristezza comprare le cose che stanno scadendo. Io non ci vedo niente di triste e ci vedo invece una buona prassi che forse tutti quanti dovremo adottare. E la no, ancora un minuto di tempo ce l'ho, magari Macri vuole commentare anche su questo, su anche questi, perché insomma la questione degli sprechi forse anzi l'aveva sollevata Mastro Giovanni con la Confederazione Italiana Agricoltori, la cosa degli sprechi. Sì. Ha perfettamente ragione, perché effettivamente si fanno molti sprechi e sicuramente comprare delle cose in imminenza di scadenza è una cosa saggia, è importante per mangiarsele subito, insomma, non aspettare che passi che scada effettivamente il prodotto. Quindi questo è un elemento che bisogna tenere in considerazione, anche perché effettivamente il caso del panettone di cui facevo l'esempio e poi diventerà praticamente per tutti i panettoni a dei prezzi bassissimi dopo Capodanno, quando ad un certo punto li svenderanno tutti, anche compresi quelli artigianali. Esatto. Quindi, e posso dire che c'è un ascoltatore che dice: dopo le feste natalizie noi facciamo incetta di panettoni con i quali arriveremo a fare colazione fino a Pasqua. Anche questa soluzione ci è piaciuta. Mastro Giovanni, una conclusione per lei. La conclusione è molto semplice: noi dobbiamo tenere presente che forse l'elemento più importante, in particolare per le feste natalizie e anche legata alla scadenza dei prodotti, è ricominciare a fare dispensa a casa. Non comprare tutto all'ultimo momento, perché lì si rischia di fare la scelta precipitosa e pagare un prodotto 10 volte tanto. Se invece c'è una questione di educazione all'uso e riuso del prodotto, probabilmente riusciamo anche a capire, leggendo l'etichetta, che il prodotto ha tutta una serie di informazioni che, se siamo in grado di leggere, probabilmente riusciamo a fare risparmio, ma anche ritrovare sapori e saperi che questi prodotti ci possono grazie, dare. Grazie a tutti per questa bella puntata dedicata ad un Natale sobrio, ma durante il quale non ci faremo naturalmente mancare tutto l'amore e l'affetto dei nostri cari e dei nostri amici. Grazie a Domenico Mastro Giovanni, Pietro Giordano, Agostino Macri, Laura Faggin per la collaborazione in redazione, e Gianmarco Ferronato in assistenza tecnica. Torniamo domani. Buona giornata.